La tua vittoria. lango a te, se me non spargo in ingrato terreno. Ma parti assai questa notte. Ah, signor, dopo il presagio dell'ospite straniero di cui la madre rider su di, dimmi caffè, ah, dimmi su questo. L'evento in breve il presagio avverò. Avessi intese sarà fra poco il sien, germe novello in sua stagion produsse. Il tuo Natale costò un prodigio alla natura, i suoi ordini violò. Anima pianta, tu sei il mirabil frutto. E la promessa eterna in te si spiega, e confidasi in quelli che nasceranno da te. Questo terreno in cui stranieri peregrinando ormai, sia dal Nilo all'Eufrate, subito ai figli tuoi. Dunque i miei figli, i nastri della Nene saranno più numerosi, il suo diletto popolo il Dio gli appellerà, per loro meraviglie offrirà. Principe e regine avrà la terra, e tutti gli abitatori suoi, quanti verranno, sian benedetti in noi. Oh, gloria, assai tu me felice. Oh, figlio, non t'appagliar fra tanta gloria, e colpa spesso il piacer, che fra il piacer nascosta serve d'amore, la rea superbia in seno, e le grazie del ciel cambia in veleno. Oh, da tempest io sento libera l'alma mia, sento quant'ora ingannarmi potrei, nessun se stesso conoscia pieno. Thank you. La mia speranza, il dolce mio sostegno. Ah, questo è un dono, questo... Ma qual sugli occhi luce mi ballano? Si presso il giorno, oggi il sol riconduce. Ah no, che il sole non ha voce si viva. Conosco per mai, sento chi arriva. Thank you. patto è questo che terribil comando. Il figlio mio vuoi ch'io ti sveni e nel comando stesso mi ricordi i suoi pregi, mi ripeti quei nomi atti ad estarmi e più tenere di me. Ma suppone la promessa al comando. No, mentir tu non puoi, e più teccio ubbidirti. Il dubbio è colpa, colpa è l'esaminarsi gran mistero. Mio Dio, sì, t'ubbidisco, e credo, e spero. Ma nel tremendo passo assisti, mio Signore. Son pronto all'opera, deggio eseguirla e voglio. Ma nel ferir, chissà, poi coi suoi modi turbarmi un cor, può vacillar la mano. Se valore non mi dai, bastoni, olà, che imponi, Isacco, dal sonno. Oh Dio, si desti, un giumento s'appresti, e due di voi siano pronti a seguirmi. Ad obbedirti volo, Signor. Senti, che bravi. Osserva che Sara non t'ascolti, il suo riposo non disturbar. Tanto sarò. Si taccia per ora lei l'arcano e si rispetti il materno dolor. Più tardi, oddio, ella vien, che dirò. Tanto l'aurora, perché ben avrà all'ova cura. Sara, io teccio una pura vittima a Dio svenar. Gli ari di rami cardi dovran sulara. Or dal vostro vicino scegliere voglio di propria man. Non trattenermi, addio. E teco esser potrò. No, questa volta piacciati rimanere. Come? Io tant'anni alle gioie, agli affanni, ti fui compagna, ed or de tuoi merti a parte, esser più non vorrei. Giusta è l'accusa. No, du merito si grande fraudar non dessi. O dall'arcan. Pastori, lasciatemi con lei. Mio Dio, reggi il suo cuore, ei detti miei. Mai dirmi vorrà, consorte amata, di tante grazie tante che Dio ti fe, di ti ramenti. E come obbliarne potrei? Sei grata a lui. E ben vedi il mio se di questa gratitudine tua da te volesse qualche difficil prova. Incontrei contento ogni periglio, darei la vita. E se chiedessi il figlio? Isacco. Isacco. Ma forse ne vorrei di Io lo chiede. Lo chiede? Sì, decio sacrificarlo a lui. Così mi impose, fu assoluto il comando. Abramo, che dici, son fuor di me. Dio vuole estinto un figlio, sì, caro a lui. Che fu suo dono, che devi di popoli si vasti essere il padre. Tanto non piacque al Signor di svelarmi, e quando un cenno dal suo labbro ci viene, sarà ubbidir, non disputar conviene. Ed Isacco fra poco cadrà sull'ana. Il padre stesso? Il padre l'offrirà di sua man. Corri o sposa, se vuoi parte nel merto alla t'illustre col tuo volere, che la presenza ancora d'una a te, e la madre, non pretendo e non voglio, attivo. Nascondi ad Isacco l'arcan, a me conviene che sappia qui me tu piatti. Ma qual torrente di lacrime improvvise ti prorompe dagli occhi? Ma no, consorte, non c'è altro dolor. So che tu sei vivente a Dio, che non contrasta suoi cenni il tuo cuore. Ciò non basta, non solo umile e pronta, convien che sia, ma risoluta e forte, a vera ubbidienza. Ardir, ardir, se vuoi, ed operi volendo. Assisterà con la sua grazia, e poi la grazia sua sarà tuo merto. Ma pensa che sa meglio di noi quel che giovarne, quel che nuocerci può, che le ricchezze, l'onore, la vita, i figli, ti son doni suoi, ne perdi a noi quel che rendiamo a lui. Thank you. Vittima di svela, l'altrui pronti chieder. Eccomi. Addio, amata genitrice. Ma ferma, io muoio. Non lasciarmi così. Che affanno è questo? Perché quel pianto? Senza figlio io resto. Ma tornerò. Che sarà l'alba o divisa fra il comando del padre? oggi quel alme bene i teneri affetti solo imitar ma le virtudi ancora procuriamo compagni quell'unità quel santo amore di quella costante obbedienza esempi sono con cui ci parla il Dio noi fortunati s'intendero sappiam ma i detti smogli se fecondi saran miseri noi Thank you. selvaccia selvaccia selvaccia